Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Primo appuntamento del mese di dicembre con l'Associazione Difesa Consumatori. Salutiamo il presidente Carlo Garufolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Dunque, oggi parliamo di giovani studenti, di giovani lavoratori, magari potremmo dire, perché una volta si andava a lavorare da giovane, adesso non più. Partiamo da alcuni dati per una ricerca recente di Alma Laurea. Sì, è una ricerca recente che è stata fatta quest'anno e che hanno coinvolto 40.000 diplomati appena usciti dalle superiori, dove praticamente è risultato che sempre più ragazzi italiani hanno un diploma, però sono sempre meno quelli che si iscrivono all'università. Quindi, rispetto a una volta, quando le nostre generazioni, i nostri compagni di classe magari si fermavano con la terza media, adesso praticamente tutti proseguono, anche perché c'è l'obbligo appunto di andare a scuola fino a 16 anni, però un po' meno tendono ad andare all'università. Questo perché secondo te? Sì, allora innanzitutto volevo fare un ragionamento prima di snocciolare alcuni numeri, perché se una volta c'era la possibilità di andare a lavorare a 14 anni, come abbiamo fatto magari noi o molti nostri amici, anche magari sfruttando quello che era un periodo stagionale tra la terza media e la prima superiore, oggi invece questa cosa è impedita e c'è l'obbligatorietà di proseguire gli studi fino a 16 anni. Se una volta andare a 14 anni c'era la possibilità di trovare l'incentivo di andare in pensione prima, oggi certamente questo incentivo non c'è più, perché sappiamo che per effetto delle ultime riforme in particolar modo i nostri giovani andranno in pensione a 67 anni, ahimè. Poi per quanto riguarda i numeri che hai detto, sempre frutto di questa indagine, è risultato proprio che dal 1984 al 2009 la percentuale dei diplomati è aumentata dal 40 al 73%, però è vero che dal 2003 al 2009 il rapporto tra gli immatricolati all'università e gli studenti appena diplomati si è ridotto di quasi 10 punti percentuali. E quindi meno persone all'università, anche per motivi economici, possiamo dire? Anche per motivi economici, perché anche qui per effetto delle ultime finanziarie, in particolar modo quelle che ha fatto il governo Monti, andare all'università sarà ed è molto più dispendioso rispetto all'anno scorso, già da quest'anno, perché se da un lato le tasse universitarie varieranno a seconda di quello che è il reddito che una famiglia ha, dall'altro sono previste delle forme di delle penalizzazioni su quelli che sono i costi ordinari rispetto a quelli prestabiliti qualora che lo studente risulti fuori anno, fino ad arrivare a pagare oltre 3.500-4.000 euro all'anno. Per quanto riguarda il rapporto appunto degli studenti, dei giovani rispetto alla scuola superiore, sono soddisfatti, rifarebbero questa scelta? Cosa dicono i dati? Beh, un dato molto interessante è che il 57% dei diplomati ha dichiarato che ripeterebbe lo stesso corso, mentre il 42% cambierebbe l'indirizzo di studio e la scuola. Solamente il 10% ha dichiarato che farebbe lo stesso corso, ma su un'altra scuola e non su quella che ha praticato, quindi penso che come dati possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti in generale. Anche se insomma il 42% che sceglierebbe una scuola diversa, un indirizzo diverso, fa pensare, perché insomma sono comunque 4 su 10 che magari hanno sbagliato la scelta quando è stato il momento di farla. Sì, 4 su 10 sicuramente non è un dato trascurabile, però è anche vero che molte volte le persone si trovano a dover scegliere le sorti del futuro quando hanno solamente 14 anni e purtroppo poi si scopre che le esperienze della vita e le opportunità lavorative, anche se oggi parlare di opportunità lavorative è molto più difficile rispetto a qualche anno fa, possono essere completamente diverse rispetto a qualche anno fa. Noi per esempio siamo i primi che abbiamo sempre denunciato come i giovani e anche i laureati in una crisi come quella che l'Italia sta attraversando sempre più vengono sfruttati per fare qualsiasi genere tipologia di lavoro. Certamente un diplomato, un laureato che si trova a dover andare a vendere, ipotesi, o fare il commesso part time in un ipermercato, per la fortuna che ha avuto di trovare magari un posto a tempo indeterminato, certamente per rispetto anche di chi fa il commesso, ma non è certo un augurio che si possa dare per chi comunque magari a 26-27 anni è uscito con una laurea di ingegneria. E certo, sono quei posti precari o precarissimi che magari sì, ti garantiscono un introito, uno stipendio seppur minimo, ma non garantiscono tutele, perché appunto quel tipo di contratti non fa maturare pensione, contributi, ferie, eccetera. Oggi purtroppo ci troviamo in una fase in cui i giovani sono disoccupati per lo più e scoraggiati. Oggi ci troviamo in una situazione in cui si è costretto ad accettare un po' quello che ti viene su, e certamente le opportunità che hanno i giovani rispetto a quelle che hanno fa sono molto minori. Anche il potere salariale degli ultimi contratti è stato ampiamente assorbito da quelli che sono stati le recenti tasse inflazionistiche, i recenti tassi dell'inflazione e i recenti finanziarie che il governo ha emanato, per cui di fronte a quella che può essere l'opportunità per un diplomato, un laureato di un lavoro a tempo indeterminato, qualsiasi esso sia, dopo, ci capita di dover purtroppo constatare che il giovane non esita due volte a pensarci. E certo, e magari comincia a pensare, come hanno fatto i nostri nonni, i nostri genitori, di andare all'estero. Sì, poi notiamo che molte volte capita che qualche associazione di categoria ha sempre denunciato che in certi settori c'è sempre carenza di mano d'opera, perché oggi comunque se da un lato si parla di un incremento dei diplomati e di molti laureati, è anche vero che ci sono sempre meno persone che comunque si prestano a fare certi lavori, quando certi lavori come panettiere, calzolaio e l'idraulico per esempio sono lavori che offrono sempre una certa garanzia sul mercato del lavoro. Poi è anche vero che comunque tra i dati di questa indagine è risultato molto interessante come i giovani si coinvolgono nel volontariato, perché comunque anche se il 16% non è un dato rilevante, però comunque è un dato a due cifre. E tra le attività extrascolastiche si evidenzia l'utilizzo di Facebook e di altri social network che i giovani, un po' per abitudine quotidiana, intendono frequentare per divertimento, diletto o quant'altro. E certo, poi magari c'è qualcuno che riesce a utilizzarlo anche per lavoro, in questo senso diamo spazio anche alla creatività dei nostri giovani. Con questo loro, con questa panoramica, anche qualche riflessione che abbiamo fatto su questo dato, noi ti ringraziamo, ci sentiamo tra un paio di giorni con un altro argomento. Grazie a te Mirko e un saluto a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.